Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo a metà novembre, fra un mese circa molti di noi riceveranno la tredicesima. Come sarà quest'anno? Già lo dicevamo in realtà all'inizio del 2012 che sarebbe stata magra, più magra. La conferma ci arriva anche dall'Adico e nello specifico dal presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, eravamo stati con te facili profeti alcuni mesi fa, qualcuno ricorda, insomma, ma è anche documentato sul sito, avevamo parlato di tredicesime a giugno, mi pare, con la prima rata dell'IMU, siccome tra poco c'è la seconda o la terza, a seconda di uno, di che cosa uno abbia scelto come rateizzazione, ci sarà l'IMU, ci saranno tante voci che alla fine renderanno questa tredicesima molto leggera, no? Purtroppo sì, quelle che sono state le nostre peggiori previsioni si sono e si stanno realizzando, perché come hai detto tu la tredicesima quest'anno sarà molto, molto leggera. Dirò una cosa in più rispetto a quella che abbiamo detto a suo tempo, che rispetto all'anno scorso sarà 2 punti percentuali in più leggera, però quest'anno rispetto all'anno scorso, a parte, dovremo aggiungere su quel poco che ci resta anche il saldo dell'IMU, perché ricordiamo che l'anno scorso chi che non pagava l'ICI sulla prima casa, poi molte persone quest'anno si troveranno a farla, e questo è un calcolo che abbiamo contato a parte. Sì, l'IMU viaggia per conto suo, poi con tutte le sue polemiche, in questi giorni tra l'altro dai comuni stanno arrivando le comunicazioni sul calcolo esatto dell'aliquota. L'IMU appunto se ne parla a parte, quali voci incidono sull'alleggerimento di questa tredicesima? Sì, ne parliamo a parte perché questo stesso lavoro che l'ufficio dell'Adico ha fatto l'anno scorso l'ha voluto rifare quest'anno per poi avere un modello di comparazione. Allora, cosa è successo? Che se l'anno scorso della tredicesima il 79% è risultata impegnata per saldare quelle che sono un po' tutte le posizioni anche accumulate, perché poi scopriamo che tra debiti accumulati, che sono per esempio spese condominiali di un tipo rispetto di un altro, prestiti, rate di un mutuo, RC auto e poi tutto quello che si può aggiungere, perché poi con la tredicesima molte persone fanno il calcolo di rinviare certi acquisti, quest'anno senza calcolare l'IMU, come abbiamo detto, rimane solo il 19% della tredicesima a cui le persone, e qua dobbiamo dire chi ha la fortuna ancora di avere la tredicesima, può fare conto rispetto all'anno scorso che invece avevamo calcolato che solo il 21% era il dato reale che ti restava come disponibile. Quantifichiamo, perché un conto è dire più leggera, un conto è dire di quanto effettivamente, poi sulle percentuali si va male a calcolare, cioè tradotto in euro, quanti euro in meno? Beh, noi abbiamo calcolato circa una tredicesima di 1.300 euro, considerato come persona che ha la tredicesima un lavoratore che ha un reddito medio di circa 20.600 euro all'anno. Ecco, dopo è chiaro che sulla tredicesima ci sono anche i pensionati che sicuramente non si identificheranno in questa condizione, però noi abbiamo voluto prendere questo tipo di lavoratore e rivolgere la stessa identica domanda, come ti ho detto. E tradotto su una tredicesima di 1.300 euro risulta che il reddito disponibile sarà poco meno di 260 euro, quindi poi circa 254, 253 qualcosa euro che rimane come tredicesima disponibile. L'anno scorso invece era circa sui 267, 268 euro, quindi una tredicesima che sicuramente da un lato rimane meno disponibile per effetto degli impegni assunti dalle persone, da un'altra per effetto di un'inflazione che è andata a incidere maggiormente rispetto a quella che è stata una rivalutazione dei contratti che in quest'ultimo anno, cioè sempre rispetto all'anno scorso, c'è stata. Considerando allora la differenza di alcune decine di euro, però considerando che quest'anno c'è l'IMU, cosa che a dicembre 2011 non c'era, come si spiega che c'è così poca differenza? Così poca differenza perché il calcolo è stato fatto su quello che fondamentalmente l'inflazione è andato a erodere, su quello che è stata una rivalutazione. C'è una differenza di circa 15 euro, però è chiaro che quei 15-13 euro rispetto comunque all'anno scorso, quindi parliamo di una differenza inferiore rispetto all'anno scorso, ma di un dato che comunque non si è rivalutato, quindi alla fine dovremmo fare 15 più 15, 30, 35 euro, e 35 euro su 1300 euro già capiamo che è una differenza di 5-6%. Ora, cosa significa? Che questa cifra qua sarà la cifra di cui poi dovremmo andare a calcolare per coloro che l'anno scorso non hanno pagato l'ICI, magari quest'anno dovranno pagare l'IMU. Quindi anche in vista di quelli che sono stati gli adeguamenti che il comune ha fatto rispetto a giugno, dove per legge avevano applicato l'aliquota più bassa, il 4% sulla linea catastale, rivalutato oltretutto del 160%, come detto, quest'anno presumo che la tredicesima non resta praticamente nulla. Ecco, e questo lo magari ne parleremo a gennaio, già a metà dicembre, quando avremo, ognuno di noi avrà fatto effettivamente i conti. La stretta sulle tredicesime, appunto, ci sono delle spese che non si possono evitare: i canoni, i mutui, tutti i rimborsi, l'IMU, tutte le tasse che a fine anno vanno comunque pagate perché hanno questa scadenza. Ovviamente resta poco, non solo, non tanto per i regali di Natale, ma anche magari per altri acquisti. In questi giorni, proprio oggi, sono stati diramati i dati sulle vendite di automobili che in Veneto, come nel resto d'Italia, sono crollate. Sono crollate, come è crollato anche il mercato dell'usato, perché ormai ciascuno tende a tenersi quella che ha, con l'augurio che questa possa andare avanti. Una delle prossime indagini che l'ADICO vorrà fare sarà quella di monitorare il costo della manodopera che i concessionari comunque applicano in occasione dei tagliandi, perché vediamo che ci sono realtà dove addirittura si arriva a 65 euro all'ora. Sembrerebbe quasi che a tenere in piedi ormai i concessionari siano le officine più che le vendite. Però, concessionari a parte, per quanto riguarda la tredicesima e dicembre, dovremmo dire una cosa e vorrei fare una riflessione. La prima, che tra le varie domande che abbiamo fatto è risultato come le persone, quel poco che resterà per la tredicesima, non la destinerà più a fare dei regali, ma a sopperire quelle che sono delle esigenze che hanno a casa. La seconda, e questo è il consiglio che io voglio fare come presidente dell'ADICO, è quello: considerate sempre, ma questo magari lo faremo su una puntata più avanti, cioè spendere e per che tipo di regalo destinare la tredicesima, quando dobbiamo ricordarci che dopo l'ultimo dell'anno ci sono i saldi. Qua torna sempre consiglio di fare dei buoni acquisto o dei buoni di un tipo rispetto a un altro, per poi utilizzare al meglio quelle che sono le poche risorse che rimangono disponibili. Allora faremo un regalo della Befana e non di Natale in questo caso. È un consiglio che si può fare, riprendendo tra l'altro un'antica tradizione. Con questo allora noi ti salutiamo, la settimana prossima sempre con l'ADICO altri due argomenti. Grazie Carlo, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.